Yeah, sono triste e ho una canna d'erba nella tasca. Non lasciando perché se lasciando dopo te la passo e a me non passa. Guarda, in pratica lo sto dicendo che non sono forte come a volte passa. Me ne fotte se mi sta perdendo e se sta perdendo quello che ci cambia. So che sto sbagliando strada. Ehi, col con me. Ehi, no, tanto nessuno. Che un giorno tornerò, non oggi che ho occhi purple. Purple, purple. Bro, cammino sopra le lame e non me ne fo. Te proprio niente di stare con i tuoi social e carichi. Ti porterà il pane a fare chichirichino. Oh, ho le mani legate a volte, io so. Ho imparato a lottare col panico. Ma non abbastanza da fare sfuggire un bro. Sono triste e ho una canna d'erba nella tasca. Non lasciando perché se lasciando dopo te la passo e a me non passa. Guarda, in pratica lo sto dicendo che non sono forte come a volte passa. Me ne fotte se mi sta perdendo e se sta perdendo quello che ci cambia. So che sto sbagliando strada. Ehi, purple con me. Ehi, no, tanto nessuno. Mondo dello spettacolo, lo spettacolo è mondo. Tutti fingono a gogo, son finito in un gorgo. Sono in para come avessi scopato la tipa al boss. Ma poi penso no, ehi aspetta un secondo. Sono io il boss stronzo. Tutto stonato storange, è il mio chemical romance. Apro gli occhi fuori Chernobyl, non stressarmi se l'accendo please. Con le gambe posso andare ovunque, fate getto lì. Sei di certo snitch, come social babbo. Occhi purple dopo 100 spliff. Benzo benzo di azepina, verso verso ancora minias. Penso penso a mia azepina, la famiglia giù in Sicilia. Educati alla guariglia, su un Ducati su una briglia. Sento il ghetto che vi spiglia, bro, ecco dentro una conchiglia. Ho una canna d'erba nella tasca. Non lasciando perché se lasciando dopo te la passo e a me non passa. Guarda, in pratica lo sto dicendo che non sono forte come a volte passa. Me ne fotte se mi sta perdendo e se sta perdendo quello che ci cambia. So che sto sbagliando strada. Ehi, hey, col con me. Ehi, hey,